dei fiori, io non corro più. Con gli amici di ieri, il tempo ha già sconfitto le ombre di un'età. E gli amori sono proprio veri, e non ho più paura della libertà. I tuoi bambini crescono bene, rubano sempre, ma non tradiscono mai, mai, oh mai. Campo dei fiori, io non strade di ieri, il tempo ha già sconfitto i soldi di papà. E le partite stavolta sono proprio vere, adesso un po' paura della libertà. I tuoi bambini escono sempre, ma non tradiscono.